la telefonare a Cagliari, perché sennò con Cagliari è Marseille. Sai, vabbè, a che tempo? Ah, che mai ieri, vero? Sì, ho detto, ma già c'è tempo. Thank you. di più. Thank you.